soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi qualche italiano, direi che è uscita la classifica dei migliori dischi dell'anno, quella preparata, predisposta dalla rivista Musica Jazz, e quindi ci sono diversi premiati, alcune segnalazioni, tutto sommato poi come sempre queste graduatorie diventano l'occasione per così focalizzare alcuni personaggi magari che passano inosservati durante l'anno. In questo caso vedo che c'è una certa condivisione, quantomeno rispetto ad alcuni degli italiani segnalati. La Federica Michisanti è stata quella che ha raccolto la maggior parte dei consensi come miglior musicista, come miglior gruppo, come miglior disco, quindi ha vinto tutto il possibile, anche al di sopra di quelle che può essere il risultato di questo pur bello disco uscito per il Parco della Musica, un disco che ha un'intenzione internazionale, mezzo francese, mezzo italiano, perché è un quartetto, quello guidato dalla Federica Michisanti, composto da Luis Clavis ai sassofoni, clarinetti, eccetera, e Vincent Courtois al violoncello e poi Michele Rabbia alla batteria, effetti elettronici, quindi musicisti tutti di grande profilo, di grande intelligenza musicale, e quindi direi che è un quartetto che si può vantare di una esecuzione di musicisti di primissimo piano. La Michisanti è la più anziana, se così si può dire, dei musicisti che ascolteremo oggi. Non è certamente una giovane, un contrabbassista romana, cresce nell'ambiente romano del jazz e ha già alle sue spalle un'esperienza considerevole, sia di collaborazione con altri che anche come leader. E anche come compositrice ha al suo attivo risultati apprezzabili, ma comunque direi che finalmente quest'anno viene consacrata come un personaggio di primissimo piano sulla scena nazionale e poi non solo nazionale. E quindi dicevo, il disco intitolato Afternoons ed è prodotto dal Parco della Musica. Ne ascoltiamo tre brani, tre composizioni della stessa Michisanti, che appunto rappresentano un po' la cifra di questo lavoro. decisamente una musicista matura, quella in grado di proporre delle composizioni così equilibrate, così anche, come dire, ben strutturate, cose caratteristiche peraltro ai contrabbassisti. E la Michi Santi, ormai la sua esperienza la conduce ad avere queste qualità sicuramente. È una musica abbastanza di confine tra il jazz e anche certe, come dire, suggestioni di musica classica, di musica cameristica. Quindi ben meritato questo primo posto per questo bel disco. Passiamo ad una musicista, sempre una donna, giovane, in questo caso è un'opera prima quella che propone, e che è uscita negli Stati Uniti. Direi che in Italia ha avuto poca visibilità. Io francamente ho incontrato questo nome, questa recensione su Margherita Fava, questa è la musicista, e l'ho incontrata in recensioni americane, di riviste americane, e in Italia non ne ho trovato traccia. È un'opera prima, una musicista giovane che abita, è nata nel Trevigiano più o meno, e poi si è trasferita con una borsa di studio, è riuscita a vincere una borsa di studio per trasferirsi a studiare negli Stati Uniti. E appunto perché è interessata, dopo avere una certa preparazione classica al pianoforte, era interessata appunto ad approfondire il linguaggio jazzistico, la storia del jazz e quindi i suoi vari linguaggi. Propone un quartetto americano con Greg Tardi al sax. Greg Tardi è ormai un vecchio leone, che è anche stato il suo insegnante. Questa è la ragione per cui lei ha cercato in ogni modo di averlo tra le fila del suo gruppo, perlomeno nella registrazione. Poi Michael Reed, che è batterista, che è suo compagno di corso, e Xavier Enrique al contrabbasso acustico. Ecco, è il disco intitolato Tata Tu, che è una sorta di parolina, le prime parole da bambina piccola, e che i suoi genitori le hanno detto che lei rispondeva ogni cosa in questo modo. Ha dato questo titolo proprio come opera prima, anche forse per sottolinearlo. Un disco, sono sue composizioni, poi c'è la presenza di due brani, due standard, Rhythm and Night di Thelonious Monk e All the Things You Are, che è uno standard classico del jazz, nella storia del jazz, che viene declinata, anche queste composizioni vengono declinate con un bel equilibrio. È una musicista che sicuramente sembra più matura dell'età che ha, e dimostra appunto una preparazione e una maturità, con un gusto molto mainstream, molto legato anche a una tradizione formale. Quindi questo può essere sicuramente il suo limite, però questo non toglie che ha un equilibrio, il disco esce con un equilibrio molto ben riuscito. Ascoltiamo tre composizioni prese, appunto, sono composizioni sue, della stessa Margherita Fava al pianoforte. Thank you.

Thank you. Questa era Margherita Fava con la sua opera prima, Tatatu, uscita negli Stati Uniti, quindi prodotta da una piccola etichetta americana. E per ultimo, un altro personaggio che è arrivato primo nella classifica di musica jazz come nuovo talento, è un giovane modenese, tra l'altro, quindi nostre parti, ha studiato a Parma, al conservatorio, insomma, si è mosso un po' sul territorio emiliano come da un punto di vista accademico, come formazione accademica, chitarrista, e poi ha suonato, ha fatto stage con un'infinità di musicisti di passaggio, corsi con vari musicisti americani, europei, eccetera. Michele Bonifati con questo gruppo Among che si propone con, appunto, con un'opera prima, quasi prima, insomma, più o meno prima, Freak Notes, è uscito per l'etichetta Nusica, l'etichetta di Fassini, di Nicola Fassini e di quell'ambiente veneto. E il risultato è veramente sorprendente, è da un punto di vista compositivo è di grande qualità, ha veramente temi di una ricchezza melodica interessante, nuova, molto, molto fresca come capacità di sviluppo. Sono musicisti, un quartetto, oltre che da Bonifati alla chitarra e alle composizioni, tutte firmate appunto da lui, Michele Colaiumi al sax, Federico Pierantoni al trombone e Vita Polidoro alla batteria e voce. E, ascoltiamo tre brani presi appunto da questo bel disco Freak Notes. Thank you.

Questo era il quartetto Among di Michele Bonifati, questo giovane chitarrista sicuramente tra i talenti emergenti più interessanti sulla scena nazionale e che appunto dà prova di una capacità compositiva interessante. Sono canzoni sviluppate poi con uno stile più jazzistico, ma hanno una struttura, come dire, lirica, molto, molto precisa, molto intensa, e quindi la capacità anche del gruppo di trascinare su un acme interessante questi temi è decisamente notevole. Quindi bel disco questo Three Knots, uscito per l'etichetta Nusica appunto alcuni mesi fa. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le trovate nel nostro sito Radio Città Fujiko, alla sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.